A portata di click. Benvenuti a tutti degli E Gustavo. E auguri a tutti, complimenti, auguri. Auguri? Che dici? Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Perché diamine stai cantando? Beh, non ho idea. Ma sul copione c'è scritto che parleremo di auguri. Ma quali auguri? Al massimo di auguri. Auguri. Cosa sono? E poi suona malissimo. Tanti auguri a te, tanti auguri. Vedi? Ora ti spiego. In questa puntata di Click Art parleremo delle necropoli etrusche. E vai! Cosa sono? Il termine necropoli deriva dal greco e significa letteralmente città dei morti. Sì, Ah, quindi hanno poco a che fare con gli auguri. Al massimo con le condoglianze, no? ok. Comunque esistevano quattro tipi di tombe: a fossa per sotterrare i vasi contenenti le cenere del defunto, ipogee a camera o a tumulo che formavano una piccola collinetta, o a cubo che erano piccole costruzioni parallelepipede non ipogee ad un piano che formavano vere e proprie necropoli, come quella della banditaccia. Nella banditaccia. Ah, quella vicino a Cerveteri, nel Lazio, che rappresenta uno dei primi esempi di necropoli etrusche. Esattamente. Mi sono ricordato tutto un'altra volta. Bravo, vedi che se studi alleni la memoria? Sì, certo, ora posso chiudere il libro di storia del Lazio. Vabbè, andiamo avanti. Gli Etruschi davano molta importanza alla vita oltre la morte. Per questo costruivano tombe in tutto e per tutto uguali alle abitazioni dei vivi, per far sentire lo spirito del defunto in un ambiente a lui familiare. L'unica differenza stava nei materiali. Ah, già mi ricordo che costruivano le abitazioni per i vivi in legno e le tombe in pietra. Studi. Perché Astuti, perché? secondo me trattavano così bene i morti per avere i numeri giusti da giocare all'otto. Sono alquanto scettico al riguardo. Comunque, grazie a queste tombe possiamo avere un'idea dell'evoluzione delle case etrusche. Una delle tombe più antiche, detta della capanna, ha infatti la struttura di una delle prime forme di abitazione etrusca, che rappresenta appunto l'ampliamento della capanna villanoviana. Ma non tutte avevano questa struttura. La tomba dei leoni, ad esempio, era diversa. Esatto, difatti questa tomba, detta così per un affresco raffigurante dei leoni, Grazie, Volpone. andato perduto, aveva una pianta più elaborata, con un corridoio d'ingresso che portava ad una camera principale, suddivisa in due aree da delle colonne. Ai lati presentava due stanzette laterali, collegate a quella centrale. In fondo invece si trovava una stanza più piccola. Un bagno. A cosa sarebbe servito? A quanto pare non ce l'avevano neanche da vivi. Chi erano gli auguri? Auguri! Comunque, in realtà quello che più ci interessa sono i letti funebri e gli elementi dell'arredo scolpiti direttamente nel tufo. Cos'è il tufo? Un oggetto volante non identificato? No, è una pietra di origine magmatica molto diffusa. Convinto tu. Chi sono gli auguri? Auguri! Tornando al discorso, un'altra tomba di questa necropoli è quella detta delle cinque sedie, perché... Aspetta! Fammi indovinare, perché ci sono 5 sedie. Pensi di essere spiritoso? Qui cerchiamo di fare un discorso serio per spiegare la storia dell'arte Ti e... ricordo che aspetto i 15 euro. Nella tomba c'erano, oltre alle cinque sedie, due tavoli posti davanti, un altare, una cesta e due troni, sempre scavati nella pietra. Oggi però restano solo le sedie che danno il nome alla tomba. E gli auguri? Auguri, per l'amor del cielo! Si tratta di indovini dell'età antica. Da loro prende il nome la tomba degli auguri, che si trova nella necropoli dei Monterozzi a Tarquinia. E fammi rindovinare, sono dipinti sulle mura di questa tomba. No. Come No, a fianco di una finta porta adorna di borchie metalliche sono dipinte due figure che gli scopritori della tomba scambiarono per auguri, ma che in realtà erano personaggi che piangevano il defunto. non sono auguri? Non potevano chiamarla allora la tomba dei personaggi che piangevano la morte del defunto? Ma anche no. E poi, scusa, ma a cosa serve una porta finta? Prendevano pure in giro i morti. Burloni. Ma no, serviva a rappresentare il confine tra il mondo dei vivi e l'aldilà. Nelle pareti laterali sono rappresentati i giochi in onore del morto. Begli amici che aveva. Muore e giocano durante il suo funerale. Che l'abbiano ucciso loro? Non puoi sapere chi l'ha ucciso, a meno che non compri Cluedo versione Etruscan, da oggi in tutti i migliori negozi di giocattoli. Trova anche tu l'assassino della tomba degli auguri. Siamo proprio messi male, eh? Per tirare avanti ci tocca anche fare pubblicità occulta. Beh, occulta mica tanto. Comunque, questi giochi erano delle onoranze funebri legate alla loro religione. Sulla parte destra vediamo una lotta tra due atleti che si contendono dei lebeti in metallo. Lebiti cosa? Dei lebeti, ossia recipienti a forma di catino. Inoltre vediamo un personaggio mascherato, chiamato Persu, che izza un cane contro un uomo incappucciato, ferito e armato di clava. No. E poi? Probabilmente quest'ultimo tirava le cuoia. Sì, se avesse avuto il tempo di mettersi a tirare le cose alla gente, avrebbe potuto anche prendersi un cafferino. Sai, prima di morire. Ma tanto noi ce lo possiamo bere alla sua festa da morto, a modo nostro. Nei migliori supermercati. Comunque, il fatto che fossero rappresentati scene all'aperto ha fatto supporre che in questo caso non si volesse tanto rappresentare una casa, ma la tenda che ospitò il corpo durante lo svolgimento delle onoranze funebri. Certo, le figure inoltre mostrano una grande padronanza della tecnica pittorica e le figure, nonostante alcune imprecisioni, sono organizzate secondo corrispondenze simmetriche. Un'anatomia accurata e addirittura rappresentazioni di scorci. Si nota l'influenza... Stai bene. No, era l'influenza. Vabbè, al diavolo. Dell'arte greco-orientale, in particolare quella ionica, adattata alla cultura etrusca. Ma ancora con il libro aperto? Ma vuoi metterti a studiare o no? Ma... aspetta, cos'è questo suono? Sono i tufo! Cambia anche il discorso, eh? Ah, no, aspetta, è la regia. Abbiamo finito il tempo. Ma ci sono ancora un sacco di cose interessanti di cui parlare. Saranno oggetto della prossima puntata. Un motivo in più per non perdersela. Tra l'altro, se avete perso la puntata precedente, se volete ripassare o contattarci, se avete dolori articolari o un forte mal di testa, c'è Momento. Oh, ma che diavolo stiamo dicendo? C'è il nostro nuovo blog www.clickart-podcast.blogspot.com. Arrivederci a tutti e alla prossima. E tanti auguri a voi. Tanti auguri a voi. Ha imparato. Quanto sono fiero. Clickart, l'art a portata di click.